cosa posso fare se l'unico pensiero che ho sei tu? Perché quando sono con te non sono più io. Ti voglio tanto bene. Sono come una bambina che non riesce a dormire al buio, un cucciolo abbandonato nella fredda notte, canzone perduta senza cantante, il cielo senza le più belle stelle quando tu non ci sei. Oh, virtua voice, provate un fel, se in giro te volerà, non vai bastare, immaginavo se. Você.